Il termine nome nella parola di Dio si trova circa 800 volte e per questo non può essere ignorato. Per noi è quel vocabolo con il quale si designano l'aggettivo o il sostantivo di una persona, un animale o una cosa. Secondo il vocabolario della lingua italiana, vi è il nome concreto e astratto. E nome concreto quando indica persone, animali o cose che si possono conoscere mediante l'esperienza, per esempio gatto, Firenze, casa, mentre sempre secondo il vocabolario della lingua italiana, esso è astratto quando indica cose che non hanno contatto diretto con la realtà, quando indica una nozione e non un essere o un oggetto, come l'amore, la gioia, la virtù. Pensandoci bene, però, constatiamo l'erroneità di questa definizione, poiché vediamo che l'amore, la gioia e la virtù non sono cose astratte, ma si colgono perfettamente mediante l'esperienza. L'amore, infatti, non è un sentimento. È la scelta di fare il bene del prossimo. L'amore di Dio, per esempio, è stato perfettamente colto tramite l'esperienza del suo figliolo morto in croce, per assicurare il perdono dei peccati a ciascuno di noi. L'amore dunque è un fatto concreto, ma torniamo a parlare del termine nome. Nella lingua ebraica con esso non si vuole solo intendere una persona, un animale o una cosa, ma anche la caratteristica di una persona. Ciò non toglie che anche nella Bibbia il termine nome sia spesso inteso nel senso attribuitogli dalla lingua italiana. Ne troviamo un esempio in Genesi 2.1014, dove il vocabolo è inteso come appellativo dei diversi fiumi in questione. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, e di là si divideva in quattro bracci. Il nome del primo è Pison, ed è quello che circonda tutto il paese di Avila, dove C è l'oro. E l'oro di quel paese è puro. Qui si trovano pure il bdellio e l'onice. Il nome del secondo fiume è Gion, ed è quello che circonda tutto il paese di Cus. Il nome del terzo fiume è Kiddecel, ed è quello che scorre a oriente dell'Assiria. Il quarto fiume è l'Eufrate. Un altro esempio, ma questa volta riferito alle persone, si trova in Genesi 4.19. Lamech prese due mogli. Il nome dell'una era Adia e il nome dell'altra Zilla. Ma sarebbe un errore fatale leggere la Bibbia attribuendo al termine nome solo questo significato, perché nella cultura semita, nel cui contesto Yahweh si è rivelato, un nome serviva anche per indicare la peculiarità di una determinata persona. Questo aspetto, benché non molto frequente, lo abbiamo anche nella lingua italiana. In effetti, vi è una razza di cani che si chiama Bassotto, nome questo che deriva dalla piccola statura del cane. Il termine Bassotto è evidentemente un aggettivo che qualifica un determinato tipo di cane, aggettivo che in seguito è diventato un nome proprio. Questa quindi è l'ottica con la quale dobbiamo considerare i nomi che compaiono nella parola di Dio. Abbiamo alcuni esempi nella scrittura che confermano il rapporto stretto esistente fra il nome e la persona. Il primo uomo si chiama Adamo, il cui significato in ebraico è terra, suolo. Infatti, egli fu tratto dalla polvere della terra. Adamo ed Eva chiamarono un figlio Set, perché era nato dopo l'assassinio di Abele. Infatti, il suo nome significa messo al posto. L'Eterno cambiò il nome di Abramo, che significa padre elevato, in Abramo, cioè padre di moltitudini. In effetti Abramo divenne il capostipite delle razze ebraica ed ismaelita. L'Eterno cambiò il nome di Sarai, principessa mia, in Sara, principessa. Giacobbe, che significa soppiantatore, fu chiamato così perché alla nascita stringeva stretto il calcagno del fratello Esaù, e l'Eterno cambiò il suo nome in Israel perché aveva lottato con Dio. Infatti nella lingua ebraica El sta per Dio. E dunque in quest'ottica che dobbiamo leggere gli episodi della scrittura. Prendiamo due esempi. Il primo è l'incontro di Mosè con Yahweh. Esodo 3.1-3.16. Allora Mosè disse a Dio, ecco, quando andrò dai figli di Israele dirò loro, Il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi mi dicono qual è il suo nome, che risponderò loro. Dio disse a Mosè, io sono colui che sono. Poi disse, dirai così ai figli di Israele, l'Io sono mi ha mandato da voi. Dio disse ancora a Mosè, dirai così ai figli di Israele, l'Eterno, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe, mi ha mandato da voi. Questo è il mio nome in perpetuo. Questo sarà sempre il mio nome col quale sarò ricordato per tutte le generazioni. Le circostanze conducono Mosè ad incontrare la persona di Yahweh, chiamato anche angelo dell'Eterno. Egli si rivela come la divinità dei suoi padri e manda Mosè a liberare il popolo di Israele. Ma Mosè è incerto, perché non conosce chi lo stia mandando, anche se è cosciente di essere davanti alla divinità dei suoi padri, ma non ne conosce il nome, cioè la sua specifica peculiarità. Fino a quel momento nessuno aveva mai chiesto il nome all'Elohim di Israele, cioè a Dio. Nessuno si era posto il problema di conoscere l'identità personale di questa divinità. In effetti, la domanda di Mosè non è rivolta a Yahweh per sapere come si chiama, ossia non per conoscerne il nome nel senso in cui noi occidentali comunemente intendiamo, ma il patriarca chiede alla sua divinità di rivelargli le caratteristiche personali che la contraddistinguono. E, per la prima volta, la divinità di Israele si rivela in un nome suo personale, che ne indica e ne definisce il carattere individuale. Io sono colui che sono, cioè colui che era, che è e che sarà. Prima dell'incontro con Mosè, Yahweh si era rivelato mediante alcune delle sue caratteristiche quali El Shaddai, Dio Onnipotente, El Olam, Dio Eterno, El Elyon, Dio Altissimo, ma mai come colui che è, che era e che sarà. Il secondo esempio è tratto dall'incontro di Mosè sul Monte Sinai, descritto nel capitolo 34 dell'Esodo. Esodo 33, 19, l'Eterno gli rispose, «Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te. Farò grazia a chi farò grazia». E avrò pietà di chi avrò pietà. Esodo 34.58. Allora l'Eterno discese nella nuvola e si fermò là vicino a lui, e proclamò il nome dell'Eterno. E l'Eterno passò davanti a lui e gridò, «L'Eterno, l'Eterno Dio! Misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, che usa misericordia a migliaia, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non lascia il colpevole impunito, e che visita l'iniquità dei padri sui figli e sui figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione». E Mosè si affrettò a prostrarsi fino a terra e adorò. Esodo 34.58. Yahweh aveva già rivelato a Mosè una sua fondamentale caratteristica, cioè di essere colui che era, che è e che sarà. Ora, al capitolo 33 del libro dell'Esodo, dichiara di proclamare il suo nome. Al capitolo 34, però, non pronuncia un nome comune o proprio di persona, ma in armonia con la cultura ebraica, egli rivela altre sue caratteristiche mai svelate in precedenza, cioè di essere misericordioso, pietoso, lento all'ira, e di non lasciare il colpevole impunito. E, in quest'ottica che dobbiamo comprendere anche l'espressione «il nome dell'Eterno», che si trova centinaia di volte. Questa espressione, più che avere il significato riferito al tetragramma soltanto, ossia a Yahweh, contiene in sé tutto ciò che caratterizza la persona di Yahweh. Così, quando nel terzo comandamento leggiamo «Non userai il nome dell'Eterno, il tuo Dio, invano, perché l'Eterno non lascerà impunito chi usa il suo nome invano», Esodo 20.7, dobbiamo intendere che non si deve pronunciare in modo irriverente non tanto il tetragramma, ma soprattutto tutto ciò che è peculiare di Yahweh. Perciò i termini Dio o il nome di Gesù Cristo non vanno usati inutilmente, né nel senso di nome proprio, né nel senso di espressione delle peculiarità divine. In definitiva, quando una persona vuole esprimere una imprecazione e anziché usare il termine Dio accompagnato da una parolaccia, usa un altro termine, come per esempio Dio buono, in quel momento sta pronunciando il nome di Dio invano. compreso il vero significato del termine nome, comprendiamo anche il giusto significato del comandamento di Dio di credere nel nome di Gesù. 1 Giovanni 3:23. E questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del suo Figlio Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri come egli. L'ordine di Dio non è tanto quello di credere astrattamente nelle due parole Gesù Cristo, ma di credere concretamente in un individuo ben definito da un nome proprio, Gesù, e di porre fede nelle caratteristiche tipiche della sua persona, e cioè che egli è il Salvatore, il Signore, il Re, lo Sposo e il Capo della Chiesa e così via. Questa verità dovrebbe far pensare tutti coloro che si accontentano di appartenere ad una religione contenente alcuni elementi cristiani e di credere sommariamente nella persona di Cristo Gesù, senza che la loro fede produca un cambiamento nel modo di parlare e di fare personale. Purtroppo oggi la fede, secondo l'opinione comune, è una convinzione o una credenza popolare. Ma secondo la Scrittura la fede è quella virtù che ha la capacità di adattare il proprio cammino a ciò che Dio ha rivelato nelle Scritture. Diversamente, fede non è più fede, ma semplice credenza popolare, simile a qualsiasi credenza religiosa e non. In effetti la vera fede si mostra nel momento dell'opposizione, quando con fermezza si rifiutano tutti quegli elementi religiosi propri del cattolicesimo o di altre confessioni diverse, che però non sono approvati da Dio stesso. Quando una persona crede più agli uomini, ossia alla religione cattolica romana o qualsiasi altra religione, che alla parola di Dio, che è, per sua stessa definizione, soltanto la Bibbia, ne consegue la sua è una fede di nessun valore davanti a Dio. Un'ultima applicazione del termine nome può essere considerata nell'ordine di Gesù. Giovanni 14:14. Se chiedete qualche cosa nel nome mio, io la farò. Con questa bellissima promessa, Gesù non ha detto di pregare concludendo con l'espressione nel nome di Gesù, ma Gesù ci invita di presentarci davanti a Dio a Lui stesso con la fiducia di essere. E, come se io andassi in banca per chiedere dei soldi senza un centesimo, ma mandato a nome della persona più ricca del mio paese. I soldi non li ritiro a mio nome, ma a nome del mio benefattore. Credere nel nome di Gesù, pregare nel suo nome, equivale a essere cosciente della propria indegnità, della propria miseria, e ad avvalersi di tutti i tesori che Cristo ci ha offerto. Proprio per questo, benedico ogni giorno il nome di Gesù. Gennaio 2007. Ellero.